Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quella di oggi è una puntata speciale di Essere e Avere, puntata monotematica tutta dedicata al vino. Riflettori puntati sulle tendenze, i canali e i format che ne stanno rivoluzionando il consumo l'abbiamo realizzata qualche giorno fa nel cuore dell'evento numero uno del settore enologico, Vinitaly. Inclini il bicchiere ed esamini il vino in controluce. Osservi il colore e la limpidezza. Ora infilaci il naso. C'è della fragola. E ha una vibrazione come di formaggio olandese alle noci. Quando beviamo? Ora. Questa è la radice della tua vita. È la radice della tua famiglia. Piantala. Crescerà. No, io amo fare il vino perché questo nettare sublime è semplicemente incapace di mentire. Vendemmiato presto o tardi, non importa. Il vino ti bisbiglierà in bocca sempre con completa e imperturbabile onestà ogni volta che ne berrai un sorso. Delizioso. Sideways, il profumo del mosto selvatico, un'ottima annata. Abbiamo voluto iniziare così, con un omaggio al vino nel cinema, questa puntata speciale che stiamo registrando a Vinitaly. Siamo ospiti del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo. Da qui, come vi sarà capitato di sentire, noi andiamo in onda a fine evento. Abbiamo trasmesso per tutta la settimana di Vinitaly molti dei programmi di Radio 24. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, li ringrazio tutti per essere qui, a partire da Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Elisabetta Foradori dell'Associazione Vite, buongiorno anche a lei. E Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Vini Soave. Buongiorno, buon pomeriggio. Benissimo. Mai come in questi anni, così fortemente segnati dalla crisi, i consumi stanno cambiando e i consumi di vino ovviamente non fanno eccezione. Nuove abitudini, nuovi criteri di scelta per il consumatore, nuovi canali per acquistare, nuovi format, nuove leve anche per la comunicazione. In questa puntata cercheremo di raccontarvi tutto questo chiacchierando con i nostri ospiti, ma non solo. Vorrei iniziare con un primo giro di domande. Roberto Moncalvo, i dati Coldiretti parlano chiari, i consumi di vino in Italia sono ai minimi di sempre, meno 7% per gli acquisti di vino delle famiglie nel 2013 per effetto della crisi e del cambiamento degli stili di vita. Leggo proprio dalla vostra ricerca, gli italiani hanno detto addio a quasi un bicchiere di vino su quattro negli ultimi 10 anni. Ecco, questo è lo scenario domestico. Quello riferito all'export ovviamente è molto più incoraggiante. Su questo scenario voi come vi muovete? Quali sono le riflessioni che avete portato qui a Vinitaly? Beh, intanto su questo scenario il vino ha costruito comunque non solo un mantenimento della produzione, ma anche una capacità di, attraverso l'esportazione, di far crescere i fatturati. Oggi noi festeggiamo un 2013 che comunque ha visto un aumento del fatturato complessivo, nonostante questo calo importante di consumi interni, che è figlio un po' della crisi e un po' anche del cambiamento degli stili di vita e anche forse di una non corretta e completa informazione sul vino, insomma, dove forse troppo spesso si fanno appelli per i pericoli e troppo poco spesso invece si guarda gli aspetti positivi che un consumo consapevole di vino può comportare. Però il vino che cosa ci insegna? Il vino oggi è sostanzialmente il simbolo del Made in Italy agroalimentare del mondo. E perché lo è? Perché nonostante questa difficoltà interna ha saputo investire tutto sulla qualità, sulla distintività e sul legame col territorio. Queste sono le leve fondamentali del Made in Italy che tutto il mondo invidia. Il vino ha saputo coglierle uscendo da situazioni difficili, tremende, 30 anni fa, e ha saputo diventare il nostro principale biglietto da visita in termini di Made in Italy. Ora noi dobbiamo riflettere su questo per capire come l'esperienza del vino può essere trasposta a tutta l'agricoltura italiana e dobbiamo studiare insieme gli strumenti per difenderla, sia all'estero ma sia nel nostro mercato interno, dove troppo spesso si produce un Made in Italy che Made in Italy non è, perché non non ha a che fare con i nostri, le nostre vigne, non ha a che fare con le nostre terre, non ha a che fare con i nostri animali. Elisabetta Foradori, l'associazione Vite collabora all'organizzazione di Vivit, che è il salone che Vinitaly dedica ai vini artigianali. Un mondo difficile da catalogare, quello dei vini artigianali. I numeri sono piccoli, poco più dell'1,5% della superficie vitivinicola italiana, una resa ad ettaro molto bassa ma con un valore molto alto della produzione in termini di legami con il territorio e con il consumatore. Ecco, che cosa unisce le storie di questi produttori? Che spaccato emerge da questa parte di Vinitaly? Io credo emerga uno spaccato, un messaggio di grande solidarietà e di una passione comune che si basa sul rispetto della terra e soprattutto del territorio, quindi di un'interpretazione vera, consapevole e molto creativa del messaggio straordinario che una vigna può dare e portare nel mondo attraverso un vino. Siamo tutti dentro le vigne per poter portare l'Italia e un messaggio veramente puro di quello che è l'italianità, delle nostre varietà, della nostra terra, di un vino pulito, sano, digeribile, un messaggio anche legato alla persona, perché dietro ogni vino c'è una grande passione e molto carattere. Ed è questo un mondo in grande crescita, dove ogni giorno ci sono storie di speranza, storie di rinascita, un messaggio italiano che sta uscendo nella sua bellezza e purezza, perché attraverso questa spontaneità esce veramente l'essenza dell'Italia, che è meravigliosa, con espressioni di più di 400 diverse varietà e di gente che ci sta lavorando, tanti giovani, tante donne. Aldo Lorenzoni, con lei vorrei iniziare parlando di una bella iniziativa della Strada del Vino Soave. Adotta una garganega, tra un minuto però, perché prima vorrei farvi ascoltare questa scheda in cui abbiamo riassunto una delle tendenze emergenti del pianeta vino. È una tendenza mutuata da altri settori, la moda in primis. Parliamo del su misura, il tailor made, ecco come customizzare il proprio vino. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Anche il vino diventa selfie. Dal vino tailor-made alla possibilità di affittare un filare o adottare una barrique, customizzare il proprio vino secondo i gusti personali fa tendenza. Dalla selezione delle uve e delle botti da invecchiamento fino all'immagine dell'etichetta. Grazie al web, produrre un vino su misura è possibile anche da casa. Su mytailoredwine.com è possibile selezionare vitigni e terroir, tecniche di cantina e caratteristiche di affinamento, fino al packaging finale, bottiglia ed etichetta comprese. Per chi ha il sogno nel cassetto di fare il produttore di vino, ma non ha le capacità, la disponibilità di tempo o di denaro, cantine, consorzi e associazioni danno la possibilità di affittare direttamente i filari di un vigneto. E una volta scelto, l'eno appassionato viene informato sui lavori in vigna. Può partecipare alla vendemmia e parlare direttamente con l'agronomo. Stesso meccanismo per l'adozione di una barrique. Il mondo del vino ha pensato anche a chi punta sulla bottiglia unica, magari personalizzata. Online, come su etichettevino.net o in alcune cantine, come Livon in Friuli, si può dare sfogo alla creatività, inserendo immagini, foto e frasi da stampare sull'etichetta. Segnali questi di una strategia di avvicinamento al consumatore, anche per condividere proprio con il consumatore la cultura del vino. Ecco, Lorenzoni, adotta una garganega. Innanzitutto, cos'è una garganega? Garganega, naturalmente il vitigno madre, direi, no, del Soave. Nei 10.000 ettari che abbiamo in Italia, sostanzialmente 7.000 sono nell'ambito della denominazione del Soave, quindi siamo a Verona, confine con Vicenza, sulle pendici vulcaniche della Lessinia. È un vitigno molto legato al territorio, tanto che si dice proprio che portato via da lì il vino non assomiglia più al Soave. Questo è un bel discorso, no? Che appartiene a tantissimi vitigni, per fortuna, italiani. E c'è questo, sentivo proprio nel commento, questa voglia oggi di partecipare realmente al fare anche manualmente il vino, e questa iniziativa coglie questa voglia di camminare nel vigneto, di conoscere il produttore, ma questo già si faceva, no? Con tantissime iniziative, però c'era bisogno di conoscere il vigneto. E nel Soave particolarmente, quindi un vigneto sedimentato che ha centinaia e centinaia di anni, ricordo che i due comuni che danno origine al Soave classico sono i due comuni in Italia a più alta intensità viticola, quindi l'85 e il 95% della superficie è a vigna, e quindi una sedimentazione anche storica. 3.000 micro aziende, sono tante piccole famiglie che hanno un ettaro, due ettari, tre ettari, e che da sempre alimentano di valore questa realtà territoriale. Roberto Moncalvo, parlare di innovazione, parlare di cambiamento in un settore vuol dire il più delle volte parlare di ricambio generazionale, proprio perché i giovani portano nuova energia, nuove idee. Secondo i vostri dati, ce lo dicono, ce lo raccontano, in molti giovani stanno tornando alla terra, alle viti. È un bellissimo segnale. Voi avete calcolato tra gli altri anche gli esiti lavorativi delle lauree ad indirizzo agrario enologico. Ecco, che cosa significa nel concreto questo segnale? In che cosa si traduce? Questa intanto è la conferma che i giovani stanno cogliendo il messaggio che ci dà il vino, e cioè la capacità di poter produrre un futuro in termini di lavoro, in termini di anche soddisfazioni personali, prima ancora che economiche, legate alla tradizione, legate alla capacità con l'innovazione di reinterpretare la tradizione per portare al mondo, a tutto il mondo, il vero Made in Italy. Questo il sistema vino lo ha saputo fare, i giovani lo colgono tornando alla terra. Se noi facciamo un focus sulle imprese under 40 agricole, oltre il 12% riguarda il settore vino, quindi a dimostrazione di come il ritorno alla terra passa molto attraverso il ritorno alle vigne, e questo è un primo elemento importante. Ma poi c'è un altro fatto: ci sono due giovani su tre che dichiarano di voler provare a fare un'esperienza di lavoro non solo in agricoltura ma nelle vigne, attraverso la vendemmia, attraverso la possibilità di lavorare intorno al mondo del vino, che è un mondo fatto di tradizione ma anche di tanta innovazione. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo creato uno strumento web, quindi online, per dare la possibilità ai giovani di candidare la propria disponibilità a fare un'esperienza di lavoro o di stage, oppure di un lavoro durante la vendemmia, ad esempio attraverso i buoni lavoro occasionali, voucher, oppure esperienze anche di lavoro più significative, poter caricare la propria disponibilità e trovare dall'altra parte le aziende che hanno necessità di giovani di lavoro. Questo è un servizio nuovo che ovviamente non può fermarsi alla freddezza e all'anonimato di un sistema automatico, ma che poi i nostri 800 uffici sui territori hanno la possibilità di trasformare in un incontro vero e proficuo fra giovane che ha voglia di fare un'esperienza e impresa agricola che ha necessità di lavoro. Essere e avere. Siamo alla seconda parte della puntata speciale, tutta dedicata al vino, ai produttori, agli appassionati, alle tendenze, ai nuovi canali e format che si affacciano nel settore, puntata realizzata alla 48esima edizione di Vinitaly. Ripartiamo dai wine lovers, gli eno appassionati, per così dire, che altro non sono che i consumatori che comprano il vino. L'Istituto di Ricerca Squadrati, attraverso l'analisi delle conversazioni in rete, li ha classificati e descritti attraverso lo strumento del quadrato semiotico. Lo abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook, potete andarlo a vedere lì. Ci siamo fatti raccontare i risultati della ricerca da Lorenzo Biscontin, direttore generale di Bosco Viticultori, la cantina che ha commissionato questa ricerca. La ricerca è appunto una ricerca semiotica, quindi si è basata sulle conversazioni che le persone fanno riguardo al vino sul web, quindi sono conversazioni spontanee, questo credo che sia importante. Gli esperti semiologi, analizzando queste conversazioni, hanno identificato questi quattro poli, ossia radical, che si contrappone all'eno snob, e diciamo opposti a questi il pane al pane, che si oppone al socialite. I radical sono coloro che credono che il vino lo fa il vignaiolo, quindi sono coloro che del vino apprezzano o ricercano i valori di natura e di sacralità. Gli enosnob sono anche loro dalla parte del sacro, ma più dalla parte della cultura, quindi per loro il vino lo fa l'enologo e non il vignaiolo o la vigna. Con i socialite invece ci spostiamo sul lato del vino visto come alimento, come bevanda profana, quindi sono le persone che dal vino cercano una gratificazione sociale, ma anche un modo per stare insieme, un catalizzatore sociale direi. Tornando invece verso la natura, però stando sul profano, abbiamo quelli che sono stati definiti il pane al pane, per cui il vino è un elemento direi quotidiano, vissuto con semplicità, proprio nella quotidianità, quindi sono quelli che rifuggono un po' le mode, le pose. Molto interessante andare a vedere poi nei vari profili, a seconda dell'approccio più o meno tecnico, ecco, per così dire, quindi più sacro o più profano, quelli che sono anche un po' le frasi ricorrenti sul vino e sul consumo di vino: meglio berlo che farlo invecchiare, il vino buono c'è anche al supermercato, la barrique è il botox del vino. Questa mi è piaciuta molto. Ecco, insomma, è una mappatura del consumatore in cui ognuno può riconoscersi, può collocarsi. Ma effettivamente, in effetti, da qui noi stiamo chiedendo alle persone sia di collocarsi, ma inoltre stiamo chiedendo alle persone che ci dicano che vini associano a questi profili, per passare dalla mappa di atteggiamenti di consumo alla mappa dei vini. Roberto Moncalvo, abbiamo scelto fra le tante questa iniziativa perché, al di là dell'iniziativa in sé, a nostro avviso ci dà un segnale importante: il marketing del vino si sta muovendo. Ma io credo che iniziative come questa ci fanno capire quanto intanto il vino ha da raccontarci, quanto il vino sia un mondo da scoprire per tutto ciò che porta con sé. Queste iniziative ci raccontano anche quanto c'è ancora da fare in termini di comunicazione positiva per far conoscere il vino. Io credo che il futuro anche del vino in Italia passi attraverso grandi azioni di comunicazione positiva che facciano capire cosa c'è di buono dietro il vino e che facciano conoscere il vino in tutti i suoi aspetti. Il vino diventa anche uno strumento per raccontare la quotidianità? Assolutamente sì, diventa uno strumento per raccontare la quotidianità, cosa che gli agricoltori, in particolare i viticoltori, ma non solo, stanno imparando a fare, perché ormai sono tanti gli agricoltori che usano ad esempio i social network quotidianamente in azienda, non solo per promuovere il prodotto finito, ma per raccontare qual è la propria vita quotidiana, quali sono le operazioni che ad esempio, parlando di vino, si fanno durante l'anno nella vigna, le fotografano, le postano e danno la possibilità a tutti di conoscere quali sono le grandi potenzialità e qual è il grande fascino che ruota attorno al mondo del vino. Elisabetta Foradori, una delle sezioni del Vivit è dedicata agli espositori georgiani, che hanno tutta una storia loro da raccontare sul vino, con una pratica di produzione e di fermentazione millenaria. Vogliamo raccontarlo agli ascoltatori? Sì, in Georgia c'è ancora la cultura viva del produrre vini in anfora, cioè i kvevri sono delle recipienti in argilla dove il vino viene fatto fermentare, sono recipienti sotterrati sottoterra e loro sono la rappresentazione della storia, poiché è la storia del vino del Mediterraneo, che l'Italia, la Spagna, la Francia stessa ha sempre fermentato dentro l'argilla. Loro sono qua con tanta allegria, tra l'altro portando anche una parte di cuore e di vivere il vino in semplicità, nella quotidianità, e tant'è che spesso il vino viene bevuto direttamente dai quevri in Georgia, non viene mai imbottigliato, quello che era un po' il passato delle nostre cascine, dei nostri nonni. Aldo Lorenzoni, con lei vorrei iniziare ad aprire un altro capitolo, che è quello dei canali distributivi. Innanzitutto citerei qualche dato per quanto riguarda i supermercati. Il 2013 si è confermato come un anno di contrazione, meno 3,4% rispetto al 2012, certo Italia, anche se il primo bimestre 2014, bisogna dirlo, si è chiuso con una perdita dello 0,3%, che fa comunque pensare ad un recupero per i prossimi mesi. Non dimentichiamo che il canale della GDO distribuisce oltre il 70% del vino in Italia. Su questo scenario si parla molto di altri canali distributivi, uno su tutti, internet ovviamente. Che tipo di riflessioni sta facendo il Consorzio da questo punto di vista? Vinitalia è un'occasione anche per approfondire questi aspetti. Alcuni degli appuntamenti più importanti sono proprio dedicati al come vendere online, di certo c'è un rinnovamento dell'attenzione da questo punto di vista e la riflessione continua. Se un messaggio deve uscire qua da questa manifestazione, proprio che siamo bravi, il sistema vino italiano è bravo a vincere anche fuori casa, però in casa non riusciamo a vincere, anzi quando pareggiamo è già un successo e sembra che ci accontentiamo. Mi auguro che tutto il mondo italiano cambi questa attenzione per il vino, riportandolo veramente, facendolo proprio e riportandolo serenamente sulle tavole tutti i giorni. Parlavamo del canale online, soprattutto delle piattaforme web che propongono la vendita di vino. Vinprivé.com è leader mondiale nel settore delle vendite event online, 20 milioni di soci, 1,6 miliardi di euro di fatturato nel 2013, conosciuto soprattutto per la moda, ha raggiunto nel 2013 il primato in Europa con 3,3 milioni di bottiglie vendute e registra anche in Italia una crescita a tre cifre. Sicuramente uno spaccato, una testimonianza interessante. Ne abbiamo parlato con Andrea Schmeidler, che è Country Manager Vinprivé Italia. All'inizio è stato abbastanza rivoluzionario quando approcciavamo noi i player importanti del vino. Poi pian pianino hanno capito l'importanza del canale e-commerce, hanno capito l'importanza dell'azienda Vinprivé. Oggi noi siamo dichiarati per loro un canale distributivo pari ai loro canali retail tradizionali, che si chiamino enoteche piuttosto che altri canali. Noi cerchiamo di alternare regione per regione man mano che facciamo le offerte, facciamo più o meno 4 eventi al mese. Adesso stiamo iniziando a proporre anche sul mercato italiano delle marche istituzionali francesi e iniziando a proporre anche sul sito francese alcune marche che hanno desiderio di essere distribuite in Francia, conosciute in Francia, e li aiutiamo nel processo di internazionalizzazione dei marchi stessi. Vorrei chiudere parlando di formati. In questo periodo, effetto crisi o meno, si parla molto del vino quotidiano, quello da bere tutti i giorni a tavola, e cresce il cosiddetto vino bag in box, una sacca in plastica racchiusa in un contenitore di cartone con un rubinetto di spillatura. Molti puristi storcono il naso, ma non sono in pochi a dire che sia invece il contenitore ideale per il vino quotidiano, anche di qualità, è utilizzato ad esempio per il vino biologico. Roberto Moncalvo e Aldo Lorenzoni, cosa ne pensate? Sicuramente questa è l'immagine di come anche le imprese stanno cercando di innovare su tutti i fronti per offrire la possibilità al consumatore di bere vino di qualità a un prezzo giusto e soprattutto di berlo sempre fresco, anche quando se ne consuma poco quotidianamente. Quindi sicuramente sono tutte iniziative positive. Lorenzoni. Abbiamo visto come il consumatore modifica anche velocemente le sue abitudini. Certo, essere nei mercati mondiali dove non c'è questo collegamento così radicale, tradizionale, legato al cavatappi, alla bottiglia, al sughero, ecco, aiuta moltissimo i nostri produttori ad aprire la testa e l'approccio, e finalmente guardiamo con più convinzione quello che c'è dentro il contenitore e non la forma stessa del contenitore. Finisce qui questa puntata speciale di Essere Avere. Ringrazio gli ospiti, Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Elisabetta Foradori dell'Associazione Vite, grazie. Vite delle Vigne. E Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Vini Soave. Grazie saluto. Anche a lei. Grazie a Paolo Corleone in regia. Essere Avere torna come sempre sabato prossimo alle 16:30. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.